Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Si è chiusa oggi a Milano la 56esima edizione del Salone del Mobile, l'evento che trasforma la città nella capitale mondiale del design. Quest'anno ci siamo concentrati nel cosiddetto fuori salone, il circuito di eventi correlato. Centinaia di mostre, presentazioni e feste che raccontano i prodotti che verranno, ma anche le abitazioni e le città che li accoglieranno. Moda e cibo si incontrano in pasticceria. Nel focus sui trend parliamo dei locali gourmet griffati. Riflessione finale dedicata invece alla riscoperta del valore della parola, anche e soprattutto nel rapporto con le nuove tecnologie. Anche nel Design Pride, la street parade con carri e musica che ha visto sfilare per la città di Milano circa 3.000 persone, il senso del fuorisalone. Una formula irriverente, quella del Design Pride, che fa del dito di Maurizio Cattelan la propria icona, ma che parla alla città in modo educato, ci ha detto Stefano Seletti, patron dell'omonimo brand famoso per il design democratico, tra i promotori dell'evento insieme a Yux, lo store online di moda, design e arte che supporterà la vendita dei progetti di giovani designer selezionati sulla piattaforma designpride.org. Il design è educato, è questa la cosa che mi piace molto anche di questa settimana. Il design è cultura legata al bello, quindi sai, questo è già comunque, e non forse arrogante come possono essere altri settori merceologici, un settore che è sano, è divertente. Nato come evento spontaneo negli anni Ottanta, oggi il Fuori Salone trasforma la città in un design district diffuso intorno a 11 quartieri, tra cui spiccano Tortona, Brera, Ventura Lambrate, Cinque Vie e Isola. Un migliaio di eventi che intercettano le ultime tendenze del design, così come di tecnologia, moda, comunicazione e cibo. Una formula diffusa, appunto, copiata da decine di manifestazioni in Italia e nel mondo, che punta su creatività e divertimento. Ma che cosa rappresenta per il mondo del design e per la città? A margine dell'evento Mix It Up di PepsiCo lo abbiamo chiesto a due grandi nomi del design, Fabio Novembre e Luca Nichetto. Trovo che stia crescendo sempre di più, è un processo di maturazione molto forte quello del Salone del Mobile. Il Salone del Mobile nasce come una fiera di mobili, se vuoi, no? Oggi è diventato forse l'esperimento, un laboratorio creativo il più interessante al mondo. Accoglie 500.000 visitatori, c'è un indotto di 200 milioni sul territorio in 5 giorni, ma non è tanto un problema di numeri, perché se lo vedi su una grande scala 500.000 è nulla, e la qualità di questi 500.000 che è altissima. È come se si accendesse un faro su Milano in questi 5 giorni che interessa il mondo. È un momento fondamentale e non è più appannaggio soltanto di chi fa dei mobili, è appannaggio della città e dell'Italia stessa. È molto importante. C'è un modo italiano di fare design riconosciuto nel mondo? C'è ancora lo slogan di Ernesto Nathan Rogers che aleggia nell'aria, dal cucchiaio alla città. Noi siamo bravissimi ad andare dalla scala di cucchiaio a quella della città senza nessun tipo di problema. Guarda, veramente deve essere qualcosa che abbiamo nel codice genetico, nella maniera di affrontare sempre. Voglio dire, Cristoforo Colombo va, convince la regina di Spagna a farsi dare 3 caravelle, lui vuole andare a trovare l'India e trova l'America, cioè noi siamo così, cioè riusciamo a tirare fuori risultati assolutamente inaspettati. Guarda, ricito qui al microfono Leo Longanesi: gli italiani sono un popolo di buoni a nulla, ma capaci di tutto. Diciamo che la selezione secondo me andrebbe sempre fatta, no? Però è anche giusto che venga fatta in autonomia, ci sia un processo naturale di filtraggio, diciamo, di quello che succede. Secondo me ci vorrebbe una regia molto forte che coordini un pochettino questo enorme circo che oramai è diventato, altrimenti diventa veramente complicato la gestione. Ma io avrei un sogno, lo dico da designer, con tutto lo sforzo sia economico che creativo che viene profusa per questi 5 giorni, e avendo un pochettino più di rispetto per il nostro pianeta, tutto questo potrebbe tranquillamente vivere per 3 mesi, ma anche di più. Vorrebbe dire che Milano avrebbe ogni anno un Expo, e vorrebbe dire che le persone tornerebbero per vedere le cose che non sono riuscite a vedere, e ci sarebbe inoltre molto più filtro, perché automaticamente non vai più a fare la performance, ma vai a fare un'esposizione. Una domanda anche sul design oggi. Il design è diventato, al di là del prodotto, anche processo, no? Si parla di information design, di design thinking, di food design. Ecco, cosa ne pensi? Io sono un po' old fashion in questo senso. E per me design, per come lo interpreto io, è collegato all'industria. Dopo chiaramente negli anni si è messa la parola design davanti a tante altre ed è diventato tutto design. A me piace l'idea della traduzione in italiano della parola design, disegno industriale, e già questo dava un'idea ben precisa della connotazione. Mauro Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo, ci spiega perché un colosso del largo consumo voglia essere presente, e uno chef stellato come Davide Oldani, che firma anche i piatti, i bicchieri, le posate, persino le sedie del suo ristorante, ci spiega il ruolo del design nella sua idea di cucina. I consumatori o i vari clienti e operatori del settore cercano comunque idee reali per fare poi innovazione, idee che abbiano un risvolto commerciale, idee che possano poi impattare la società e creare una società più interessante e migliore. E se qui comunichiamo e basta, ma sono operazioni vuote di pura comunicazione, poi lasciano il tempo che trovano e noi perdiamo quella credibilità. Secondo me oggi, negli ultimi 3 anni, probabilmente dopo Expo, che ha dato una spinta pazzesca alla città e all'economia del paese di Milano, c'è un approccio diverso, cioè iniziamo a avere operazioni che secondo me sono molto più solide. Nel nostro caso è quello che stiamo cercando di fare, ovvero veniamo qua con tutta una serie di prodotti e brand che esistono, sono esistenti e ci teniamo a questo, e poi dopo facciamo delle proposte attorno a questi prodotti per veramente creare un dialogo, sperimentare con i vari consumatori e attori del settore, influencers eccetera eccetera, per capire come migliorare quei prodotti o come creare delle esperienze incredibili che però vadano sul mercato, che siano reali, che siano concrete. E sto vedendo altre aziende che stanno facendo cose del genere al di fuori del mobile, che per definizione lo era già così, e questo secondo me fa bene a Milano, fa bene al design e fa bene poi al business in generale. Design non è una cosa che faccio giusto per farla, ma la faccio perché è un'esigenza. La mia idea di design parte dall'efficienza del prodotto per dare comodità ai miei ospiti, questo è il concetto mio. Quindi da lì parte tutto il mio mondo, che è quello delle posate, piatti, bicchieri, ultimamente ho fatto tavoli, le sedie, tutto con un concetto di ospitare e di benessere, questa è la base. Che cosa ha significato, che cosa significa tuttora un evento come la Design Week, anche per chi non è strettamente nel mondo del design? Ma è coinvolgente perché fa muovere la città, poi di riflesso si muove tutto, perché più gente arriva su Milano interessata alla città di Milano e ai prodotti che si fanno in Milano, e più tutto quello che circola intorno lavora. Quindi serve proprio per promuovere Milano in tutti i suoi settori, che possano essere la moda, che possa essere il design come questa, o addirittura sentivo dire che faranno anche una food week dedicata solo al cibo. Quindi credo che Milano sia veramente nel momento magico, e se anche altre regioni, altre città in Italia lo fanno, vuol dire che l'esempio è un grande esempio. Ancora dal fuori salone vi raccontiamo l'idea di Chef Rubio per valorizzare il consumo della pasta fresca. Come? Attraverso il design e un packaging innovativo. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Essere e Avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Cibo e design si incontrano nel progetto Origami Italiani, pensato da Chef Rubio con il designer Filippo Protasoni, un progetto che vuole rilanciare il consumo di uno dei prodotti principe della cucina italiana, la pasta fresca, grazie a un packaging innovativo, un tubo a sezione triangolare che si chiude come le celebri creazioni di carta giapponesi, perché il vassoio dei pastifici scoraggia l'acquisto, mentre questa specie di Toblerone no, ci hanno spiegato gli ideatori. Li abbiamo incontrati nei laboratori che hanno tenuto da pasta d'autore durante il fuorisalone. Nasce da un delirio e dalla disoccupazione 7 anni fa a Londra. Cercavo un modo più veloce di poter, e qualitativo, di poter portare a casa una pasta fresca ripiena da un eventuale pastificio con i ritmi di oggi, quindi con metro e tutto imballato di gente che può rischiare di farti cadere a terra la teglia. Avevo pensato a un tubo e poi questo tubo è stato il punto di partenza con cui Filippo poi dal quale ha partorito questa fantastica pack, che però si è poi ampliato non solo per quanto riguarda il discorso di contenuti, ma anche di messaggio, che è appunto quello di non solo trasportare qualcosa di estremamente qualitativo dal pastificio a casa, ma anche prendersi cura delle tre figure che possono prendere parte a questo progetto, che sono chi fa la pasta, il cliente e gli amici che formano questo trittico. E questo trittico viene riproposto ovunque, nella forma, nelle persone che ci hanno partecipato, perché c'è anche Chiara, la mia manager, che ha preso parte a questo progetto, l'ha sviluppato insieme a noi, e soprattutto nelle porzioni che ci sono, che sono modulari, e si parte da un 3, che è un 2 più 1, un 4, un 3 più 1 e un 5, che è un 4 più 1. Nasce come una piccola critica al fatto che un prodotto così qualitativo è ancora rinchiuso all'interno di botteghe che sono sì su strada, ma non hanno la possibilità di comunicare cosa hanno all'interno e che cosa offrono. Quindi con questa fantastica innovazione credo che attraverso la modularità dei post-it alle spalle di chi vende la pasta, basterebbe anche un piccolo negozio di pochissimi metri quadrati con un laboratorio, e poi ognuno può farsi la propria linea di pasta e la propria linea di blocchi e vendere la propria pasta. Quindi insomma, accorciare a zero la filiera e passare dal produttore al consumatore in un passaggio di mano. Filippo, sul pack hai lavorato sul concetto di origami, appunto, quindi sulla piegatura, eccetera, raccontaci. Sì, diciamo che l'obiettivo è stato proprio quello di lavorare su questa analogia tra il prodotto che è contenuto e il suo contenitore. Quindi, come il tortello, abbiamo cercato di interpretarlo come un origami italiano, perché come l'origami parte da un foglio di carta, il tortello parte da una sfoglia quadrata e piegando diventa tridimensionale. La stessa cosa abbiamo cercato di farla rientrare in quella che è la forma e soprattutto la storia del pack, quindi anche l'esperienza utente ruota attorno a questo concetto di piegare. E diventa anche un regalo, un prodotto da portare a cena, perché no, al posto della bottiglia del gelato? Sì, esatto, questo è uno dei punti che abbiamo assieme discusso e che io trovo assolutamente interessante, proprio perché l'aspetto smart della pasta fresca in questo senso non mette come dire, in imbarazzo, in difficoltà chi ospita, e quindi può semplicemente mettere sull'acqua, abbiamo già tutto quello che serve, quindi si può sempre dire va bene, vengo a cena, grazie dell'invito, al primo ci penso io. Focus sui trend. Nella settimana che celebra il design ci occupiamo anche delle altre due F dell'eccellenza made in Italy, fashion e food, moda e cibo. Dunque un connubio sempre più stretto, testimoniato anche dalle aperture o acquisizioni di locali gourmet da parte delle case di moda, ristoranti, pasticcerie e caffè. La strategia alla base è quella che gli esperti chiamano lifestyle brand, una marca cioè che entra in ogni aspetto della vita dei consumatori. Ne parliamo con Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, buonasera, bentrovata. Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti quanti. Allora, iniziamo da uno dei casi che meglio rappresenta questa trasformazione: Prada e la pasticceria Marchesi a Milano. Sì, esattamente. Ha aperto molto recentemente il terzo negozio della pasticceria Marchesi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, e al piano mezzanino del palazzo della Maison Prada dedicato al dell'uomo, e in questo modo si sono affiancati tre simboli proprio dell'eccellenza, della moda e di Milano: da un lato la galleria, da un lato Prada e dall'altro questa storica pasticceria che addirittura ha iniziato nel 1824. Tutto parla di eccellenza anche in termini di raffinatezza, anche solo nel layout di questa pasticceria, che si rifà molto alla sua storia, per cui eleganza, per cui anche molte boiserie, e molto coerentemente appunto anche con il brand Prada, se vogliamo, e che cerca, con l'acquisizione dell'80% di questa pasticceria molto recente, di creare in questo spazio particolare un polo che coniughi moda, ristorazione, arte e eventi culturali. Tra l'altro è già un luogo, una meta di culto per i turisti, le vetrine sono plurifotografate, operazione analoga del resto a quella con la pasticceria Cova in via Monte Napoleone da parte della holding di Louis Vuitton, che con un altro dei suoi brand, questa volta Bulgari, punta sul cioccolato. In questo caso ci spostiamo addirittura a Dubai. È un esperimento, il secondo, nel campo proprio della cioccolateria, questa Choco Boutique, che era già stata aperta da Bulgari in due città giapponesi, però in questo caso hanno deciso di tentare questo esperimento invece nella City Walk di Dubai, sempre però rifacendosi alla maestria, da un lato, del maestro cioccolataio o cioccolatier, come si preferisce dire in francese, Kanako Saito, grandi amanti tra l'altro sia chiaramente della cultura del cioccolato ma anche della cultura del Made in Italy. Infatti i suoi, le sue praline, i suoi cioccolatini sono molto simili a gioielli quasi, che però si rifanno alla cultura italiana, anche con delle cose forse per noi un pochino spiazzanti, però a partire anche dagli ingredienti utilizzati, per esempio mi dicono anche che il formaggio gorgonzola addirittura. Torniamo a Milano con un brand amatissimo dai più giovani, ma non solo, parliamo di Diesel. Anche qui molto recente questa apertura in pieno centro a Milano, a San Babile, a fianco al suo flagship, anzi proprio senza soluzione di continuità, nella Galleria del Toro. Si può entrare in questo bistro Glorious Café cosiddetto, che nasce dalla passione, in questo caso da una passione dell'imprenditore Renzo Rosso, è già un diciamo appassionato viticoltore e enologo, infatti nella sua Diesel Farm produce tre qualità di vini rossi diversi, e si è in un'alleanza proprio alla ricerca della qualità anche del prodotto e dei produttori, quindi dicevo in un'alleanza con Autogrill e l'Università di Pollenzo, ha creato questo bistrò dove è possibile gustare caffetteria, pasticceria, panetteria, anche eventualmente take away, quindi molto interessante anche questa triangolazione tra così attori diversi che però tutti appassionati diciamo intorno al tema del food. Questa tendenza dalla moda sta contagiando altri settori che incontrano analogamente il cibo. Chiudiamo con un'altra icona del Made in Italy, Luisa. Esattamente, che forse effettivamente apparentemente avrebbe magari in questo caso di nuovo poco sembrerebbe a che fare con il cibo, ma invece la Ducati, stiamo parlando della grande casa automobilistica italiana, ha creato uno spazio tutto dedicato alla Scrambler è questa moto iconica di Ducati, anticonformista americana della Land of Joy, che a Bologna in questo caso ha creato in una zona tra l'altro che sta diventando sempre più interessante per una ristorazione molto conviviale, molto giovane, quindi in un capannone, un'ex fabbrica riadattata, ha creato questo spazio molto informale, molto conviviale, dove è presente immediatamente il riferimento alla moto, quindi dalla vetrina, che proprio fa bella vista di sé, bella mostra, poi però quindi ovviamente è possibile in questo caso, come sempre, una ristorazione, quindi degustare piatti della tradizione italiana, anche emiliana, molto dalle lasagne, e tortellini, e poi anche eventualmente corner per venire in contatto ecco con la marca e quindi anche i suoi prodotti magari più legati al merchandising. In chiusura abbiamo ancora pochi secondi, Luisa, che cosa rivela, che cosa ci dice questa tendenza? Guarda, concludo proprio a partire da Roland Barthes, una sua citazione è stato uno tra i primi a sostenere che il cibo non è soltanto una collezione di prodotti, ma è anche stesso un sistema di comunicazione e quindi un'espressione culturale, no? Un linguaggio che racconta qualcosa di chi lo sceglie e chi lo propone. Queste aziende lo hanno compreso davvero molto bene e hanno realizzato differenti format a seconda proprio del DNA che li caratterizza. Luisa Schiero, grazie, alla prossima. Il consumautore. Questo è il momento della riflessione finale in compagnia del sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa. Questa sera mi vorrei concentrare sulla grande nuova importanza della proprietà di linguaggio, no? Noi spesso ci lamentiamo che ad esempio il mondo dei social è un mondo che sta inquinando il nostro modo di parlare, di selezionare le parole. Ecco, allora piuttosto che lamentarsi, come sempre bisogna trovare delle alternative. Tra l'altro proprio di questo abbiamo parlato qualche giorno fa nella tappa senese a Siena del nostro Festival della Crescita, che si è incontrato con il Festival della Lingua Italiana curato da Massimo Arcangeli, che è un bravissimo linguista, e abbiamo approfondito proprio il rapporto tra proprietà di linguaggio e nuove tecnologie, e abbiamo scoperto che, come sempre, se si usano questi strumenti in modo intelligente si può crescere invece che regredire. Quindi nella società dei contenuti visivi, visuali, in che modo la parola può ancora comunicare in modo, in sostanza? Ma allora, intanto non dimentichiamoci che rispetto a qualche anno fa scriviamo molto di più. Ci sono miliardi di persone che scrivono tutti i giorni. Uno potrebbe dire sì, ma si scrive male. Beh, intanto si scrive, perché 10 anni fa immaginavamo che non avremmo più scritto. E poi, come sempre, quando si sviluppano delle capacità a livello così mainstream e di massa, emerge poi il bisogno di approfondire, di perfezionarsi, ed è importante che anche la scuola questo lo capisca, perché c'è anche un nuovo gusto anche dei ragazzi, che tra l'altro tornano a essere anche grandi lettori e leggono anche libri, non ebook, anche di riappropriarsi proprio della qualità del senso delle parole. Questo anche per il marketing credo che sia molto importante, cioè proviamo a non più banalizzare espressioni. In fondo il lavoro di Testa, che è stato il più grande pubblicitario, no? E che oggi in questi giorni si sta in qualche modo festeggiando, dimostra che la grande inventiva sulla parola può essere una grande risorsa. C'è anche un rinnovato senso del gioco, dell'esercizio proprio sulla parola. Assolutamente, no? Dell'anagramma, insomma. Stefano Bartezzaghi, devo dire che è docet, e ad esempio i suoi libri tornano a essere letti, consultati, e c'è addirittura, come dire, anche un grande ritorno non solo tra gli anziani, dico della settimana enigmistica, perché per me non è una brand, ma è diciamo un archetipo. Ecco, quindi questo gioco con le parole io credo che sarà una delle strade per crescere. Pensiamo anche a tutto il mondo dei rapper, che sulla parola hanno costruito insomma la loro cifra di comunicazione, di gioco anche nella musica. Assolutamente, generi musicali che tornano a dare centralità alle parole, cosa che si era perso, ecco. Quindi davvero potrebbe essere un rinascimento della parola. Grazie a Francesco Morace e grazie a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.